sì. Guarda, con l'aiuto sono a 1,3, mi sa suonare 1,3. 1,2, 1,3, dai. Questo è accordatore. Ok. Poi considera anche una cosa particolare, che io ti sto ricevendo in verticale e tu stai trasmettendo in orizzontale. C'è da tenere in considerazione soprattutto quello. Sì, è vero. Per cui direi che allora a questo punto dovrebbe andare bene. Non so cosa dirti, per me va bene. Positivo. Lui sei stato gentilissimo, io ti ringrazio. Niente, lascio solo un braccio perché le due mi sembrano, dai, così tolgo l'accordatore, tolgo solo il braccio e uno e due, liscio. Ok, ho capito. Comunque fai tante prove, provo a metterlo anche in verticale, il polo, anziché essere solo in orizzontale, metterlo a V invertita, e magari probabilmente migliori, anzi sicuramente migliorerai. Dici un filo, dici la filare, ecco, 30 metri ne ho, 30 metri di cavo ci sono. Vabbè, d'accordo, quello che sarà vuol dire dovrà mettere un palo centrale più lungo e far scendere le due braccia, poi cercare di accordarlo alla larghezza giusta, più largo, più stretto. Di solito si parte a 45 gradi la discesa dei bracci, però può essere anche più grande, dipende da come si presenta la situazione. Vabbè, ti lascio in pace. Grazie ancora, gentilissimo, buona vita. Ok, ciao Gabi, figurati, non c'è problema, ci mancherebbe. Ci sentiamo, dai, ciao Gabi.